male che tu mi stai rispondendo, ma non lo sei. No, no. Allora volevo provare appunto se stava andando bene, tutto qua. Una cannonata qua, sì. Anche qua, 5-7, alla grande. Ma fai radio, Gigi? Ah, ma lo senti a Giulio? Radio, buonasera, sì che lo ascolto. Siccome c'avevo anche l'altra radio accesa, capito? C'avevo pure le cuffie in testa, quindi non ho seguito molto bene. I bucardini, i cuffi. Già arrivi, anche da Giulio, anche da Luca, arrivi da tutte le parti. Quindi già va bene, dai. No, volevo provarlo appunto se stava andando bene, perché ce l'avevo un po' di tempo fermo qua. E ho detto adesso lo accendo a vedere come sta andando, se funziona sempre. Già va bene. Guarda se riesci a trovare il numero di Giovanni, mandamelo, che così lo chiama, se me lo dà, vado a prenderlo, lo provo, lo pulisco, se funziona ve lo bago, se no se lo deni. Lo stavo cercando, non ce l'ho più perché ho cancellato tutto, addirittura ho eliminato tutto anche da WhatsApp, li ho tutti eliminati, quelle persone lì, capito? No. Sì, lo saluto, se lo vedo, perché è sempre un ex, però, capito, non ce l'ho più quel numero lì. Comunque lo sai dove abita, se vuoi, dove c'è il barbiere Piero lì, quella zona lì è me, alla, dove c'è Piero, praticamente quella traversa di Piano Zio Cirvi, quella zona lì abita, nel primo portone. Sì, dopo ha piazzato l'antenna, dove abitava sempre. Scappa di positivo, sì, sempre lì abita, capito? Io sono molto che non lo vedo, però sta lavorando giù a coso, alla tana. Sì, allora domani mattina, tanto lui alle 10:30 scende per fare l'impasto, domani mattina ci faccio un salto alla tana e glielo dico, se me la porta, gliela provo e la testo, se va bene la tengo, se no le do una testata, come ha detto Luca, vero Luca? Io gli ho offerto 100 euro, perché è una radio comunque adattata. Gliel'ho data io 10 anni fa e ce l'avevo già io 3 o 4 anni, capito? Però una radio che funziona bene, c'è anche 6 metri quella, 50 mega, va bene, e con l'SM20 va anche molto bene, il 27 soprattutto, capito? Quindi per quella cifra stai comprando un baracchino, capito? Però l'importante, Luca, mi hai detto tu che vada bene, se funziona, perché io gli ho data che funzionava alla grande, l'ultima volta l'ha provata con me in 40 metri e funzionava benissimo alla grande. Se funziona io gliela compro, se non funziona se la tiene. Perché lui mi ha detto c'è un'antenna per provarla, sicché già lì mi sono immaginato che questa radio è ferma da tempo. Poi l'ho vista su Facebook, tutta piena di piuvaro. Ma uno può pulire una cosa, a una connetta, no? Puliscila. Prima di fare una foto a una radio si pulisce, si mette in ordine, poi fai la foto e la metti su Facebook. Quando la presenti così, è anni che è ferma, è chiaro che nessuno te la compra. Allucinante. Vai Giulio. Ok. L'altro giorno stavo parlando con Danilo di Sant'Orsola. Ha comprato un 140 da uno di Cagliari. Mi sembra che aveva detto 150 euro. Compreso anche il 250, un 140, e stavo uscendo alla grande, dice vabbè, dice lo conosco questo qui, è per quello forse che ha fatto questo prezzo, ma con quel prezzo, dice, gli ho detto hai fatto un affarone, ti puoi immaginare? Sì, beh, il 140 che avevo comprato io ho pagato 200 euro, cosa c'entra? No, se uno se ne vuole disfare, se ne disfa, ma... perché evidentemente o ha bisogno di quattrini o se ne vuole disfare per altre cose, ma io non ti posso dare un 140 a 150 euro, no? Il prezzo del 140 è dalle 250 alle 300, sei in ottimo stato, capito? Quindi, ha fatto un affare sì, no, non l'ho sentito, non so manco chi sia, vabbè. Comunque, se adesso controllo quel telefono dove ho recuperato il tuo numero, lui, dovrei averlo lì, forse dovrei averlo lì. Non lo so, o da qualche parte col nominativo, adesso controllo, vai, poi vediamo. Ci sentiamo dopo, vai California. Ciao ca, vai, buon carica, buon tutto e saluta in casa anche da parte nostra. A dopo, dai, se entrate entro anche io a farmi una piccola chiacchierata. Ok, ciao ca, ci sentiamo allora, alle prossime, dai. E anch'io adesso scendo giù, dai, sono già le 8:05, per cui siamo nell'orario... per la cena. Va bene, signori belli, grazie per la chiacchieratina, ci sentiamo domani eventualmente. ciao Luca, ciao, ciao California e ciao Claudio. Salutoni a tutti, ascolto il finale e poi chiudo. Vai Luca. Ciao, ciao Giovanni, va, ciao Franco. Ciao Giulio, dai, buon carica, buon tutto, saluto al Correa anche da parte mia. Comunque quando lo devi fare quei cuscinetti me lo dici, già lo sai, non c'è problema, tranquillo. Ok, dai, anche io chiudo e vado a fare carica batterie, se ci siete entro dopo. Ok, ciao ancora Cla, ciao anche a Luca, sicuramente per si è spostato, e a tutti quelli che sono in ascolto, ciao a tutti, per me è quel ritmo non è tanto. Ok, ciao, ciao Cla, ci sentiamo. Ciao Luca, se sei ancora all'ascolto, alle prossime. Sì, ci sono sempre, stavo mandando un messaggio. Va bene, dai, a dopo allora, dai. Ok, ciao, ciao Lu. Ah, ascolta Lu, ti volevo chiedere, secondo il caso che voglio ordinarmi il Baofeng, come quello che ho, quello giallo, no? Tu ce l'hai sempre il capo per espanderlo? Sì. Vabbè, d'accordo, ne parliamo più là. Ok, ciao Luca, ci sentiamo, grazie per la chiacchierata, ciao. Sì, yeah. Ok, ciao Giù. Mi sentono? Chi è? Mi sente, prova. Sì, ti sento bambino, avanti. Buongiorno a tutti, cari ragazzi. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vi faremo vedere una bellissima cosa, ma ciao ragazzi, oggi canteremo ad impatto, tutti ragazzi, oggi canteremo Ginevra Pitani, Carlotta, magnifica ciò, no, Ginevra la Grande, facciamo un applauso. Vai a giocare da un'altra parte, vai a giocare da un'altra parte, questo canale è occupato, cammina. Vai a giocare da un'altra parte, vicinito. Addirittura. Vai a giocare da un'altra parte, ti ho detto, che questo canale è occupato, hai capito? Pronti ragazzi. Vai a giocare da un'altra parte. Ottimi.it. Vai a giocare da un'altra parte, ti ho detto, ma però, che questo canale è occupato, capito mi hai? Tutti i bambini qua vengono a giocare, ma non lo sanno che il canale 7 è della banda cittadina. Ah? Oh, vi metto la portante. A tutti i ragazzi, non vale nulla. Vai a giocare da un'altra parte, ti ho detto, hai capito? Se non lo puoi usare questo aggeggio che stai usando, eh? Capito, hai, bello bello. Ma dimmi tu. Tutti a giocare con questi portatili ci mettono. Sembra che ci abbiano giocato le mano, Mica non ti senta più qua, mi, capito? Vai a giocare con le bambole. Andiamo e andiamo, sono quasi. Sono le bambine che stanno parlando qua, ma roba da mattina. Come sono fatto, vedi? Ma sicuramente sono vicino a me, o forse perché io sono in alto, li sento, non lo so. Ma gli ho detto già dall'altro giorno che di andare a giocare nel canale 1, non nel canale 7. Il canale 7 è occupato dalla banda cittadina, dai CB di Sassari, capito? Bello bene. Vai a giocare con le bambole. Tutto pieno di CB2. Tutto pieno di bambini di guastiche. Sì, pazienza ci vuole con la gente anziana. Ma dimmi tu. No, i padri sono che li comprano questi cosi. No, è inutile che ce l'ha segnata questa frequenza quando poi ci sono i bambini che si mettono a giocare. Infatti, strano. È strano. E il padre dice, cosa vuoi per il compleanno? I walkie-talkie. Però non lo sa che non è un walkie-talkie. Che è un PMR, si chiama. E disturba gli altri che devono parlare. Ciao Vittu. Ormai è tutto allo stato bravo, tutto libero. Sì, vabbè, tutto libero, ma noi siamo grandi vaccinati e poi ce l'abbiamo in concessione, quindi ma permetti che lo uso se ce l'ho in concessione. Però questi bambini devono capire che questo non è un gioco. Non è un gioco, capito? Quindi andate a giocare con le bambole, con la palla, non a giocare qua. Che questo non è un gioco, capito? È bello bene. O faccio ruga baba buduyu. E ci andiamo a mangiare. Mi è venuta anche fame. Allora sei Vittorio, rientrando? Sì, rientrando, finito di lavorare a casa. Ciao a tutti, buone cose, statemi bene. Ciao Vittorio, saluta Laura altrettanto, ciao ciao. Ciao Lu, dai che vado a mangiare, c'ho fame, se ci sei a dopo, ciao. Ehi, ciao Cla, ciao Vittorio, non so se mi ascolta, ho il portatilino. Da qua, da Lima Delta. Perché io non sono col portatilino? Con il portatilino ti sento CCC e ti sentirai CCC a me, ma già ti sentia. No, io ti ascolto alla grande. Vabbè, sono un'auto costruita qui col Baofeng UV5. Andavè. Sentono a me e sono pure dentro la macchina, quindi figurati. Bene Mela, buone cose a tutti. Ci si sente. Ciao Vito, ciao. Ciao Lu, ci sentiamo dopo. Ora ci aggiorniamo comunque, se ti faccio sapere, ok Lu? Ehi, fammi sapere. Dai, adesso cerco la foto e te la mando di quella radio. Ehi, guarda, comunque quella che gli ho dato io, adesso, boh, io mi ricordo 726, perché 725 non ce l'ha. Ah, lo sai qual è Lu? Ah, ti ricordi quella che avevi comprato tu da Marco? Ok, hai fatto cambio con Marco, quella lì è me. Ma io quella che avevo fatto da Marco però l'avevo adattato, Benito mi aveva dato il 140 e poi non so se è quella. No, quella gliel'ho data io, tranquillo che gliel'ho venduta io, ok? Poi ti mando un vocale su WhatsApp. Quella gliel'ho venduta io quando ero via Pascoli 10 anni fa e non ci sono dubbi, però è la stessa di quella che tu hai fatto il cambio. Una bella radio, però in 27 io ho fatto cambio con Benito. Benito mi ha dato il 140, capito? E io gli ho fatto quello che ti ho detto, Claudio, di più no, perché così piena di polvere, agito, bisogna che funziona. Sì, la radio era accesa, però, perché lui mi ha detto, mi ha scritto, ma hai un'antenna per provarla, ti puoi immaginare? Come te la radio, non sa ma credo se funziona. Perché lui l'avrà usata, guarda, dove abita lui, antenna non ne ha mai messo. Quando io abitavo in via Pascoli, che ci vedevamo tutti i giorni, siccome era l'ex cognato di Franco, quindi io frequentavo Franco e ci vedevamo tutti i santi giorni anche con lui. Se non tutti i santi giorni, insomma, ci vedevamo spesso. Gli avevo montato, perché era già radioamatore, gli avevo montato una X300 e poi una verticale. Una verticale, capito? 5 bande, vecchia, ora non mi metto, forse era della Sirtel o cosa era, non mi ricordo, quella con i radiali lunghi, comunque erano 5 bande. Le avevo montate quelle, le avevo regalate, tutte e due antenne. E l'avevamo provata la radio, era una conna matta. Poi è stato un bel di anni che non la usava, l'aveva messa da parte e poi l'ha ritolta. L'ha ritolta, mi ha telefonato a me, quindi lui c'ha il mio numero, ma io non c'ho il suo, blu. Non lo so, l'abbiamo provata e andava bene, capito? Perché la ICOM non è come te, o Gembo, dove se lo lasci il trovato non funziona più. Quello è un Caterpillar, è una signora radio, quindi lui a me me la dà, io la faccio funzionare. Se è vero che funziona in tutte le sue cose, va bene. Diversamente ve la adoro, Lu, capito? Già ti faccio sapere comunque, ok? È la stessa di quella che avevi tu. Sì. Ripeto, io gli ho fatto la mia offerta perché ero nel dubbio, anche siccome ho visto che era di Sassari, ero nel dubbio e gli ho offerto 100 euro. Perché ho detto, se poi la radio è da revisionare tutto, chissà quanto mi costa. No, io non le do con nulla, lui io, se trovo il numero di telefono, il telefono, se lo scendo dove lavora, intanto lui la mattina è lì che sta facendo l'impasto, capito? Per la pizza. E glielo dico, se me la dà, ma penso non ci siano problemi, io la provo. Se è conforme a quello che dico io, va bene. Quel prezzo se li vale lui, tutti. Se li vale tutti. Se c'è qualcosa che non va, gliela ritorno e si arrangia, capito? Vado a cenare, ci aggiorniamo, ok? Ciao Claudio. Sì, 200 la sta dando su Facebook. E se li vale, se funziona, pulirla non è un problema, o verniciare i coperchi non è un problema, il contenuto che c'è dentro deve essere efficace. Se funziona va bene, se no si la deve. Sì, infatti gli ho scritto compresa di microfono, poi non so che microfono è perché non c'è nella foto. No, non ne ho dato io SM20, c'ha il microfono normale. Vabbè, comunque ti faccio sapere, dai, ciao. Via, ciao ciao. Avanti Vittù. Sì, deve essere già arrivato a casa Vittorio, dai, ciao. Via, ciao ciao. Io no. Ma come volevo dire, in greco o in italiano volevo dire? Che queste non sono frequenze da giocare. Eh? Ancora non avete capito? Vai a giocare con le bambole, ti ho detto, hai capito? Ma io non ho capito. Questo non è un gioco, bambini, non è un gioco. Queste sono radio amatoriali, dovete finire di rompere le scatole. Faremo vedere. Tipo giocattolo, quelli datteli. E allora, il padre li ricompra, capito tu? E si mettono a giocare come che stiano giocando con un walkie-talkie. Ma io non riesco a capire. Veramente adesso faccio la segnalazione alla postale, alla polizia postale, perché non si può più andare avanti. È inutile che ce l'abbiano assegnata questa frequenza se ci sono questi bambini in mezzo ai piedi. Cosa vuoi ti dica, boh? Tutti i santi giorni questi bambini in mezzo ai piedi. No, queste sono frequenze assegnate dal ministero, avete capito sì o no che non è un gioco? Andate a giocare con le bambole. No, ma come arrivano qua? È tutto, deve essere quei piccolini, Ma piccolini a tu, ma se ti bastano i piccolini, se mi arrivano Santiago Nove a me, piccolini sono. No, qua non arriva, tanti, perché che usano quei tipo brondi, quella roba così. Oggi faremo una sfida di campo, Ginevra Pitaris. Non mi da tutta, macca di cadena, vai a giocare con le bambole, chi c'è mucco? E pulisciti il muccio invece di stare con la radio. Sto sentendo 9 mi arrivano mia tu, roba davanti. Secondo che non sento nessuno, Perché si mettono a girare i coglioni, si mettono, né in zona tua, E cosa ne so? Io vabbè c'ho l'antenna sul tetto. E poi dalla posizione in cui sono, capito, è chiaro che li sento. Ma è tutti i santi giorni, di mattina, di sera, adesso faccio una segnalazione. È inutile che ci hanno segnato tre frequenze e poi non le puoi usare con chi ti mette a ribedi. Chi c'ha mucu? Cosa vuoi fa? Per carità. Vai, pulisciti il muccio, ti ho detto, vai! Ma perché ti stanno anche rispondendo male? No, ti parlano sopra, non rispondono male, no, ti parlano sopra. E io non faccio l'antenna in occhi sopra, sennò la via crepata. Stavo dicendo che arrivano ben forti, non è cosa di brondi, no? Quelli devono essere quei Baofeng sicuramente. Roba cinese da 4-5 watt, capito? No, secondo me sono in zona lì, secondo me, perché non arrivandomi a me. Se avrà avuto un Baofeng mi era arrivato, invece qua non arriva. Niente, non ti arrivano, io ho l'antenna a 40 metri di altezza però, Non c'ho l'antennino di gomma, no? Per quello che non ti arrivano. Li sentiva anche Luca Flip, scusa, quindi. Vabbè, comunque adesso faccio la segnalazione, adesso mi sono rotto. Gli ho detto l'altro giorno di andare via da questo canale, non c'è niente da fare. Boh, sempre qua sono. Fa vira, cosa vuoi ti dica? Sì, vabbè, dai, vado a cenare, Anto. Ci ascoltiamo dopo se coincide, ciao. Sì, ya dai, vado a farmi la doccia. Sì, io li sento anche qua, Dai, ti sto mandando una foto. Eia, ma infatti Antonio non li sente perché non c'è antenna, noi che abbiamo l'antenna già li senti anche tu. Mandami la foto. Ma comunque è quello lì, quello che c'ha i 6 metri. Il tuo c'aveva i 6 metri, no? Sì, ti sto mandando la foto. Eia, va bene lui, dai, ok. Poi non riprendo più, vado a cenare che mi hanno già chiamato, ciao. Eia, vado a cenare anch'io, classe. Cosa? Tu eri tu, cosa hai detto? Che vado a cenare anch'io. Ho salutato anche Antonio. Sì, dai, ciao Antonio, ci sentiamo dopo al limite, ciao. Ballo. Ma già